100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Ci sono due indicazioni che vale la pena di sottolineare all'interno del nuovo rapporto sul risparmio degli italiani realizzato dal centro INAU di Insieme Intesa San Paola. Il primo elemento, tutto negativo, conferma che questa crisi, che dura ormai da 6 anni, si è letteralmente mangiata quasi un terzo del ceto medio italiano, almeno guardando alle capacità di spesa e di risparmio. I numeri: la classe media rappresentava il 57% degli italiani nel 2007, oggi è scesa al 38%. È sicuramente interessante notare come questo processo nasconda in effetti una sorta di ascensore sociale bloccato, o un ascensore che addirittura funziona al contrario, un dato confermato non solo dai risultati statistici. Colpisce infatti che soprattutto tra i giovani ci sia una diffusa consapevolezza di vivere condizioni di vita peggiori rispetto a quelle dei genitori. Questo è appunto l'ascensore che funziona al contrario, e c'è anche la conferma di un senso di sfiducia che resta molto diffuso. Tuttavia, e qui arriva la seconda indicazione fornita dall'indagine, questa volta di segno positivo, qualcosa sembra poter cambiare. Torna, seppur lentamente, la fiducia, e per la prima volta dal 2012 la propensione al risparmio degli italiani torna a salire. Secondo l'indagine, l'anno scorso le famiglie italiane hanno messo da parte mediamente l'11,6% del proprio reddito. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Sono trascorsi ormai quasi 7 anni dal crack di Lehman Brothers e dalla grande crisi finanziaria che dagli Stati Uniti poi dilagò in Europa per arrivare fino in Asia. Il pezzo più importante della legislazione contro gli abusi delle banche è finalmente entrato in vigore, tra l'altro proprio oggi. La cosiddetta Volcker Rule, dal nome dell'ex governatore della Federal Reserve che ha immaginato questa regola, d'ora in poi i grandi colossi americani della finanza, società come JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs e così via, non potranno più utilizzare i propri soldi, i soldi della cassa, la liquidità che hanno dentro, per poter scommettere in borsa attraverso i propri operatori. Lo potranno fare soltanto per i clienti, ma questo per quale motivo? Per evitare proprio il conflitto di interessi, cioè che la banca utilizzi i propri soldi per fare scommesse, addirittura si è scoperto in molti casi contrarie a quelle che sollecitavano ai propri clienti. È un passo molto molto importante questo per la stabilità dei mercati e soprattutto per la sicurezza del risparmio. Possiamo quindi stare più tranquilli? Attenzione, molte banche hanno scorporato le proprie divisioni del trading interno e i dipendenti addirittura hanno creato dei propri hedge fund per poter investire in borsa. Basta una cifra? Addirittura negli ultimi 4 anni sono nati 1.428 nuovi hedge fund creati proprio da chi? Dagli stessi che lavoravano per le grandi banche. Insomma, l'importante adesso oggi è evitare che le banche vadano a finanziare proprio quegli hedge fund da cui si sono distaccate per evitare il conflitto di interesse. Un mercato più sicuro, comunque, è un mercato ben vigilato, e questa deve essere la regola di base. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.